Mama, Mahamoma. lava. Asidy ny tany sy lalitra, tariny indrana vavimena, tsaiky ny lasoamo. Tsara tsika mfakadala zao zanaka sakalava anao zanaka sakalava razana tsika mahery laza maro sakalava boka sambava baba nina Tumba manunga tan maland, lambusi na ngumbi miskiland, viafsa kalava mar maland, tumaro amro yukun mavand, baba, nina! Marie! Rule mama, Sema leutena, oh yeah. Zambizana Kamalaga, se maleu pega. Zaisana Kamalaga, se te mane kirese. Zaisana Kamalaga, se te mane kirese. Alune some. Kazamamarahe ya, kadi nakovamba zaka jambe faita ko. kwizivo abilano nena meni zakati kuchapeta ko iziko hita kwandu wafa ale kwizivo abilano nena meni zakati kuchapeta ko Ano kaza men kulwateya kaza mama raheya Matina kwa baba zaka jabe faita ko Iziko hita kwandu wafa ale kwizivo Bila nombe ala mengi zaka tie kuchapeta ko maloa ranomasola tsaka sarotra ampody ny tany avy any ka ino ny tananao masapatia tsy hoagnany tavogny vaky tsy hita fagnamboaragna mampara elo loatra rô tsô hotara mampara elo loatra magny aminay agny zao zala tia odea oya ea magny zala isataogno amorogna antagnavo fomba zala tsy mody koa tsy alignandro ya oya ea fomba zala tsagnatsagna tsisy mahavavy fety zala tsy mody koa tsy mandraigny eya oya eya soma zala ilanda ivelogno tia mpanjava manjôvo moregny kakalelakake eya oya eya doko pognany vala iha manimanigny aminay agny zaho zala iaodeya oya eya manigny zala arivariva antanin'olo antegna zala matsiarotsiaro ya oya eya agny avako jiaby zay lavitry ray mandreny antegna zala karaha teto magny eya oya eya mampalahelo iha